assassini. Si partiva da Saliceto con un secchio e una rete a catturare i cavedani in qualche torrentello. Restavamo per ore appollaiati sui sassi a parlare di niente, intenti a cogliere un guizzo in quello sputo d'acqua sotto il sole a picco. Ricordo l'odore delle alghe secche e poi un odore acre come di medicina dallo scarico della fabbrica. Anche oggi, le rare volte che mi capita di tornare ancora al paese, ritrovo in quell'odore i miei 12 anni. Riconosco le voci dei vecchi, le crepe sui muri, la strada che si fa sterrata, i sassi. Basta così poco in un giorno come questo per morire di malinconia. Mia moglie mi sfiora i capelli con la mano, quasi una carezza. Accenna ad un abbraccio di una tenerezza dimenticata. Annega il viso nella mia giacca, lei non sa dei cavedani. Non sa di quando li gettavamo nel secchiello pieno d'acqua velenosa del Bormira e stavamo lì a contare con il cinismo innocente dei bambini fino al momento in cui avrebbero voltato al cielo il ventre argenteo. 1, 2, 3, 4, 5. In piazza davanti alla chiesa c'è già qualcuno ad aspettare. Forse non ti ricordi di me, ma io ti ho visto nascere. Eravamo sempre insieme, io e il tuo papà. È un uomo piccolo, magro, la testa ossuta e il volto scavato come il vetro di un fiume. Mi stringe forte l'avambraccio come volesse in quella stretta raccontarmi una storia lunga una vita. Poi altri volti, altre voci, altre parole. Diceva di aver messo da parte qualche cosa per ricomprare la terra più su nelle fasce dove non arriva il fenolo. La sua vigna, papà, aveva dovuto darla via per niente. Dall'uva veniva un vino cattivo che non si trovava a venderlo. La terra è rimasta lì, incolta, rovi, ortiche, come i giardini delle case dei matti, e lui ha dovuto cercare posto in fabbrica. Il cavedano disegnava gli ultimi cerchi nervosi in quell'acqua che non è più acqua. Acqua rossa, acqua malata. 1, 2, 3, 4, 5. Un uomo così forte, il mare se l'è portato via in 2 mesi. Fa così caldo qui che non si respira. Entro in chiesa e per un attimo è come immergersi in un'urna di acqua fresca, acqua corrente, pietre vive. I cavedani grandi erano i più difficili da prendere, si nascondevano sul fondo delle pozze dove l'acqua è più alta. Erano anche più diffidenti, sempre pronti a guizzare sotto le pietre o tra le alghe al minimo movimento. Bastava un riflesso sulla superficie calma dell'acqua a metterli in allarme, un breve contatto del nostro mondo con il loro. La vita gli aveva insegnato qualche cosa, eppure anche loro prima o poi sarebbero finiti nella rete o presi all'acqua. Era solo una questione di tempo, di attesa, di pazienza. Anche quelli alla fine li si poteva prendere per fame. Ci sono 2 corone di fiori, una macchia di colore contro il marmo dell'altare, i figli e i nipoti, l'acna e i colleghi tutti, ma non è più il tempo delle parole. Perché ogni parola ormai, alla misura del silenzio, salirà come un cancro alla gola e si fermerà fredda sulle mie labbra. Saprà di fenolo, saprà di sangue. Penso ancora ai cavedani e vorrei chiedere scusa ad ognuno di loro. Questi sono i ricordi del giorno in cui ho salutato mio padre. Il suo corpo gonfio nel vestito della domenica, disteso sul dorso, il ventre al cielo, come un cavedano.